Noi come campagna per la riforma della Banca Mondiale seguiamo da numerosi anni il caso della diga di Csikszói in Guatemala, insieme ad altre ONG internazionali, tra le più famose International Rivers Network, che è un'ONG degli Stati Uniti. Seguiamo questo caso perché secondo noi è molto indicativo di come grosse istituzioni come la Banca Mondiale e più specificamente per la diga di Csikszói anche la Banca Interamericana per lo Sviluppo e purtroppo anche la cooperazione internazionale hanno finanziato dei progetti che non solo sono stati abbastanza inutili, ma hanno avuto impatti sulla vita delle comunità locali a dir poco devastanti. Il caso del Guatemala è assolutamente gravissimo, perché noi parliamo di una diga che è stata costruita nel 1982, quindi più di 20 anni fa. Quell'epoca in Guatemala c'era una guerra civile sanguinosissima, c'era una dittatura militare, e quindi per far sì che la popolazione locale, che sono indigeni Maya Aki, non si opponesse al progetto, cosa che invece chiaramente stava avvenendo, ma in maniera del tutto pacifica, nel 1982 ci sono state addirittura 4 stragi, quindi dei veri e propri massacri di donne e bambine che venivano tacciati dall'allora governo guatemalteco, insieme anche a gli altri uomini che sono stati uccisi, come veri e propri terroristi. Un evento del genere non può che essere spaventoso agli occhi di tutti, tant'è che la Commissione per la Verità delle Nazioni Unite, che si è occupato del caso Guatemala, ha appunto stabilito che in presenza di quei massacri si può parlare addirittura di un vero e proprio genocidio. La sostanza dei fatti è che la diga è stata costruita, i sopravvissuti ai massacri nella zona dove è stata costruita la diga, quindi gli indigeni Maya Aki, sono stati sfollati e hanno vissuto per decine di anni a questo punto in territori molto poveri di risorse e in condizioni di estrema indigenza, senza che le promesse di un reinsediamento adeguato e di compensazioni venissero mantenute. Con l'aiuto di organizzazioni come appunto la campagna per la riforma della Banca Mondiale e altre ONG internazionali, hanno cercato di rivendicare i loro diritti, che sono assolutamente legittimi, anzi la cosa più scandalosa è che per tanti anni nemmeno la Banca Mondiale, come detto tra le finanziatrici del progetto, si sia mossa in maniera adeguata. Gli ultimi sviluppi di questa storia sono recentissimi. A inizio settembre, più precisamente l'8 settembre, la popolazione del Maya Aki ha occupato il sito della diga, bloccando la produzione di energia idroelettrica, che tra parentesi non ha risposto alle aspettative degli economisti sia della Banca Mondiale che del governo guatemalteco. Gli ultimi sviluppi di quello che possiamo definire il caso Csikszói si sono avuti pochi giorni fa, poche settimane fa, più precisamente l'8 settembre, allorché 2000 indigeni Maya Csikszói, quindi tra i sopravvissuti delle varie stragi avutesi all'inizio degli anni 80, hanno occupato il sito della diga, bloccando la produzione di energia idroelettrica, rivendicando i propri diritti, chiedendo le giuste compensazioni e riabilitazioni che da anni richiedono, senza praticamente nessun successo. E, i primi sviluppi 36 ore dopo questa occupazione pacifica sembravano abbastanza positivi, ovvero c'è stato un impegno da parte del governo guatemalteco e della società ora privatizzata che gestisce la distribuzione dell'energia elettrica per costituire un tavolo negoziale con tutti gli enti interessati, tutte le istituzioni interessate, tra cui appunto Banca Mondiale, Banca Interamericana per lo Sviluppo. Però già le prime notizie che ci hanno raggiunto dal Guatemala non sono diciamo non lasciano degli spiragli troppo positivi, perché sì, c'è stato questo impegno, ma si è saputo che alcune persone che hanno partecipato a questa protesta sono state denunciate per futili motivi, addirittura chi lavorava per l'Inde, per la società che distribuisce energia elettrica, è stata minacciata di licenziamento. Diciamo, è un po' stridente questo contrasto tra chi effettivamente rivendica dei propri diritti e la definizione del governo, che invece subito la butta su questioni di terrorismo che francamente sono veramente patetiche.